Io ci sono ancora e scrivo un testo per la gente che mi ha accompagnato, per il dolore e la storia che abbiamo, vivendo ogni giorno sulle strade del ghetto. Qui sono vive me le foto di quel mondo che porta lo sguardo, e questa è la storia del ghetto in cui sono cresciuto. La situazione, la confusione nel ghetto, la mia convinzione che mi esce dal petto, il rispetto, l'infamia, la rabbia nel ghetto, il sogno da realizzare, il bisogno da sfamare. Mi giro di spalle, i pensieri si allontanano dalla mia testa, non voglio essere un fallito, mi farebbe male, voglio alzare la cresta. Gesù Cristo che mi spinge, Dio che mi accompagna, la mia voglia vince, il mio fuoco che spacca, le liriche e la mia voce che mi spingono su un'altra galassia. La rivalità nel ghetto, gli schiaffi nel ghetto, l'amicizia nel ghetto, i fatti successi nel ghetto, pretendo rispetto nel ghetto. E si va, nel successo si va, Jenko ce la farà, Franz che ti canterà la seconda strofa, anche lui ce la farà. Sono un rapper dalle mille parole con tanti sensi, adesso tu cosa pensi di questi versi? Ti sembrano diversi dalla realtà? Svegliati, questa è la cruda realtà, purtroppo immaginabile fin troppo, inaccettabile anche troppo, tra poco scoppio, mi sono rotto. Che giorno che è schiarato nel ghetto, ti aspetto, rifletto sulla questione di rispetto. Scommetto che quando cadrai, penserai sia stato tutto sbagliato, no. Io ci sono ancora e scrivo un testo per la gente che mi ha accompagnato, per il dolore e la storia che abbiamo, vivendo ogni giorno sulle strade del ghetto. Senti qua, Franz Fox. Sono nato e cresciuto nel ghetto, nel vero estremo di Roma, dove i giornalisti fanno a gara chi altra più una notizia, fottendo la realtà. L'etichetta di un quartiere vale più delle sue persone, conosco a memoria tutti i suoi vicoli, ho incrociato mille più sguardi, ho versato sangue, ho pianto sulle sue strade, ho saputo cosa significa avere fame, creando la mia storia, transoni incomprensibili e verità invisibili. Il trucco c'è ma non si nota, si da bambino ho capito che nella vita bisogna prendere una direzione, di non accontentarsi di quello che si possiede, perché nessuno ti può togliere quello che si vuole. Non mi fido delle persone per colpa delle ferite del tempo. Sono cresciuto nell'odio e differenza della gente, sempre pronta a farsi i cazzi propri, ma tutti pronti a buttare in culo a qualcuno per sentirsi migliori. Ho invidiato il ferro di qualche stronzo che rompe i motori, rispeccia per le strade, grazie a quella polvere che sembra tra i ragazzi, di quei ragazzi controllati in una pattuglia che gira tra le popolari, perché hanno fatto un po' di soldi grazie al fumo. Quante storie ho vissuto, le vicoli che percorro, in quel ghetto tra amori clandestini, in quel ghetto tra fumi illegali. Il giorno che è schiarato nel ghetto, ti aspetto, rifletto sulla questione di rispetto. Scommetto che quando cadrai, penserai sia stato tutto sbagliato, no. Io ci sono ancora e scrivo un testo per la gente che mi ha accompagnato, per il dolore e la storia che abbiamo, vivendo ogni giorno sulle strade del ghetto. Il ghetto impara a vivere, a superare il difficile, a capire la situazione, con la mia voce che scuote le persone, con la voglia di rivalsa che mi scorre nelle vene. E sì, ti potrà sembrare strano, forse troppo diverso, che Roma e Napoli si uniscano in un testo, Franz Fox e Jenko, insieme nonostante diverse storie, ma la stessa passione scaturita nel ghetto. Ma qui tutto il mondo è paese, se ancora non conosci il nostro nome, perché hai avuto paura ad ascoltare la voce del quartiere, dove se la musica riesce a non mandarci in pazzia e farci raccontare una storia, qualcosa di forse di immaginazione, come un film di Fellini e Pasolini. Vita in strada che sopravvivono nel quartiere, che qualcuno mi spiegasse cosa significa dolore o quartiere difficile, che nonostante mi sia ripetuto da tutto resta il marchio del ghetto. Il marchio del ghetto che mi rimane addosso, come se fossi stato in un macello. Cancella quanto detto, sono sveglio mentre dormo, distolgo lo sguardo, mi sono rotto il cazzo. Tu credi che Napoli e Roma siano quelle che mostra il TG5? Giorno che è schiarato nel ghetto, ti aspetto, rifletto sulla questione di rispetto. Scommetto che quando cadrai, penserai sia stato tutto sbagliato, no. Ci sono ancora e scrivo un testo per la gente che mi ha accompagnato, per il dolore e la storia che abbiamo, vivendo ogni giorno sulle strade del ghetto. Sono ancora e scrivo un testo per la gente che mi ha accompagnato, per il dolore e la storia che abbiamo, vivendo ogni giorno sulle strade del ghetto. Qui sono vive me le foto di quel mondo che porta lo sguardo, e questa è la storia del ghetto in cui sono cresciuto. Roma e Napoli ancora una volta insieme per la nuova storia del ghetto.